24. La storia. Per quasi 30 anni ha dominato la Russia del socialismo reale. Ha realizzato grandi opere, ma è stato anche l'artefice di repressioni spietate. Joseph Stalin, dalla morte di Lenin in poi, ha eliminato sistematicamente tutti gli avversari politici, compresi i rivoluzionari della prima ora come Trotsky e Bukharin, seminando poi terrore nella popolazione e nello stesso Partito Comunista. E d'altra parte ha guidato l'Unione Sovietica alla vittoria militare contro i nazisti e si è poi spartito il mondo con gli inglesi e gli americani nel nuovo ordine stabilito a Yalta. Insomma, una figura controversa che oggi proviamo a raccontare a Mix 24. Di sicuro una delle figure che ha più segnato il XX secolo. Il suolo dell'ex Unione Sovietica è disseminato dalle sue vittime. Più di 20 milioni di persone, condannati ai lavori forzati, esiliati, deportati, ridotti alla fame. Stalin ha terrorizzato il suo popolo per un quarto di secolo, fino alla sua morte, il 5 marzo 1953. Eppure, mai nella storia sono state versate così tante lacrime per la morte di un tiranno. Non c'è famiglia che non abbia avuto a che fare con il terrore stalinista. Anche quest'attrice Dodo Cicisnasde del Teatro Bolshoi di Mosca racconta così di aver pianto al funerale di Stalin. Ho perso tanti parenti stretti per causa sua, davvero tanti. È una cosa che non so spiegarmi. Ancora oggi non riesco a capire il motivo. Ma anch'io quel giorno ho pianto. Sì, ho pianto. Le sirene del mondo comunista suonano per alcuni minuti. È l'ultima apparizione del mito, o forse solo l'ultima illusione. A raccontarlo è lo scrittore ed ex dissidente Lev Kopolev. Quello che io e altri come me in quei giorni rimpiangevamo non era il vero Stalin. Era il mito Stalin, la fiaba Stalin. La Georgia. Una terra inospitale ai piedi del Caucaso. È qui che nasce Iosef Vissarionovich Dzugashvili Stalin. La casa natale a Gori è meta di pellegrinaggio. Negli anni 30 vi viene edificato persino un tempio. I visitatori, tuttavia, ignorano che la vita in quella casetta era un inferno. Il padre, calzolaio, è alcolizzato e picchia suo figlio tutti i giorni. La madre manda il figlio 14enne in un seminario a Tbilisi. Vi resterà 3 anni. Ma Stalin, verso i suoi insegnanti religiosi, nutre solo disprezzo. Ha scoperto i testi marxisti che diventeranno il suo nuovo Vangelo. La carriera di Stalin inizia all'osservatorio astronomico di Tbilisi come meteorologo. È il suo unico lavoro da borghese e durerà per 2 anni. Deve controllare i dati raccolti dai colleghi. La sua firma, Dzugashvili. Ma il lavoro è solo una copertura. Il giovane rivoluzionario vuole sovvertire la società. La Russia zarista è un gigante con i piedi d'argilla. Governata per 3 secoli dalla dinastia dei Romanov e sfruttata da una nobiltà oziosa e parassita. Una nobiltà che danza sull'orlo di un vulcano. La Russia è una polveriera. Anche a Tbilisi scoppiano sommosse. Per ora, però, la polizia zarista si rivela più forte. Dzugashvili viene arrestato come sobillatore. La sua scheda segnaletica decide di farsi chiamare Stalin, l'uomo d'acciaio. Stalin viene mandato al confino. Poi nel 1913 riesce a fuggire. Il suo obiettivo è quello di raggiungere Lenin, che si trova in esilio in Europa. Nei film dell'epoca staliniana, Stalin viene ritratto come l'unico sul quale Lenin può fare affidamento all'epoca della rivoluzione. San Pietroburgo, 1917. Lo zar è rovesciato e la neonata democrazia russa deve fare i conti con Lenin, l'agitatore. Eppure non esiste neanche una foto di questo periodo che ritragga Stalin, il compagno di lotta. Ce ne parla Anton Noveschenko, figlio di un rivoluzionario del 1917. La sera della rivoluzione, il 25 ottobre 1917, C'era un tè nell'appartamento della famiglia della sua fidanzata. Stalin passò la serata a bere tè, raccontando aneddoti divertenti e barzellette georgiane. Fu così che trascorse quella serata. Fuori, intanto, i soldati bolscevichi assaltano il Palazzo d'Inverno, la sede del governo russo in carica. È l'inizio di 70 anni di dittatura comunista. Prima di morire, Lenin ha preso le distanze da Stalin, del quale critica il carattere rozzo e brutale. Nessuno si preoccupava molto di Stalin, ecco perché non dettero molto peso al testamento di Lenin, in cui si diceva chiaramente che Stalin doveva essere destituito dalla carica di segretario generale e destinato ad altro incarico. Ma gli eredi di Lenin non rispettano le sue ultime volontà. Stalin viene confermato segretario generale, una decisione di cui si pentiranno amaramente. A salvare Stalin fu proprio il fatto di essere considerato un mediocre dalla cerchia intorno a Lenin. Erano tutte persone più intelligenti e dotate di lui. E nessuno vedeva in Stalin una figura politica di primo piano. Nel 1928 il suo rivale Trotsky, uno dei padri della rivoluzione russa, viene messo fuori gioco. Trotsky, in catene, viene caricato su un treno che lo porta in esilio. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Nato in Georgia di umili origini, Stalin, l'uomo d'acciaio, nel 1903 sposa Caterina Svanitze. Sua prima moglie, che muore di tubercolosi nel 1907 dopo 3 anni di matrimonio. Qualche anno dopo al Cremlino c'è un'altra sposa. Nadiezda Aliuleva, adolescente, sposa Stalin nel 1917. Nadiezda è una fervente comunista. All'esterno, però, non trapela nulla dei coniugi al Cremlino. Dal matrimonio nascono 2 figli, Vassili e Svetlana. Anche Nadiezda vede suo marito molto di rado. In 15 anni di matrimonio esistono solo 2 foto che li ritraggono insieme. La foto con la Rolls Royce. Ecco, davanti c'è Stalin con l'autista. Dietro, rannicchiata, la giovane moglie, tutta sola. Riflette la loro situazione. Lei è lontana da lui. È molto sola. A metà degli anni 30 Stalin compie il miracolo, l'elettrificazione del paese. La fame è sconfitta, l'Unione Sovietica diventa una potenza industriale. Ma il boom staliniano ha il suo prezzo. Milioni di morti, milioni di schiavi costretti a lavorare nell'arcipelago Gulag, il sistema dei campi di lavoro di Stalin. La loro miseria è indescrivibile e ancora oggi nessuno può dire il numero esatto delle vittime. Sentiamo Lev Kopolev, scrittore, ex dissidente, e poi la voce di un militante stalinista. In quel periodo eravamo tutti convinti, mi riferisco ad amici e colleghi di lavoro, che Stalin fosse uno statista geniale, uno che non sbagliava mai, uno che dal nulla stava trasformando il nostro paese in una potenza mondiale. Per noi Stalin era come Pietro il Grande. Dicevamo, è come Pietro il Grande, la rivoluzione industriale, la rivoluzione culturale. Noi donne non dimentichiamo che il merito della nuova vita felice che conduciamo è tutto del partito dei bolscevichi, del partito di Lenin e Stalin e dell'eroe degli eroi, di colui che ci ha condotto di vittoria in vittoria, che ha saputo conquistare il nostro infinito amore, il grande Stalin. Ogni giorno treni merci portano migliaia di deportati nei gulag, i campi di prigionia. Ben pochi riusciranno a fare ritorno. Eppure il mito di Stalin sopravvive anche nei gulag. Nei lager gira una frase: il grande Stalin non sa quello che succede qui. A migliaia scrivono al Vojd, al grande condottiero a Mosca. Stalin era la nostra unica speranza. Noi eravamo davvero convinti che egli fosse all'oscuro di tutto. Eravamo convinti che fosse un santo, il più santo degli uomini e soprattutto l'unico che potesse salvarci. Lo veneravamo e lo pregavamo come un dio. Consideravamo Stalin un padre eterno. Era la voce di Mikhail Tamarina, ex deportato nei Gulag. Per anni i cittadini sovietici hanno ignorato quello che accadeva di notte dietro le mura del Cremlino sulla scrivania di Stalin. Lo racconta un ex deportato, Lev Razgon. Stalin impartiva ordini che erano sentenze di morte. Per ogni singolo distretto amministrativo c'erano gli elenchi delle persone da fucilare e di quelle da deportare nei lager. 366 liste della morte, firmate con la penna rossa da Stalin in persona. 44.000 nomi. A volte il dittatore ne cancella uno. È la salvezza. In Unione Sovietica non c'erano pene di cui Stalin non fosse a conoscenza. La gente gli scriveva pensando: se Stalin l'avesse saputo, non sarebbe andata così. Dunque il mito di Stalin, Stalin amico del popolo, specie dei bambini che gli portano fiori. Engelsina Markizova, figlia di Markizov, il commissario del popolo, nel 1936 è una bambina che viene raffigurata in un'immagine diventata poi uno dei simboli dell'epoca staliniana. Qualche tempo dopo venne nella mia città uno scultore di nome Lavrov e fece una statua che raffigurava una bambina tra le braccia di Stalin. C'era una scritta: grazie compagno Stalin per la nostra infanzia felice. Meraviglioso. Ma anche dietro questa immagine si nasconde l'altro volto di Stalin. Accusato di essere una spia dei giapponesi dagli sgherri di Stalin, il commissario del popolo Markizov viene fucilato. Lì ebbe fine la mia vita serena, la mia infanzia felice. Stalin intanto ordina il riarmo dell'Armata Rossa. Deve diventare la più forte del mondo. È l'atto di nascita della potenza sovietica. Dalle fabbriche di armamenti escono modernissimi carri armati. Anche nell'aeronautica militare l'Unione Sovietica si mette al passo con le nazioni più avanzate. Molti cittadini sovietici non solo tollerano la rivoluzione dall'alto di Stalin, ma la condividono con entusiasmo. Nei Gulag, i terribili campi di prigionia staliniana, finiscono 40 milioni di persone. Metà di loro, più di 20 milioni, troverà la morte. Tra le vittime anche centinaia di migliaia di kulaki, contadini ricchi che si opponevano alla collettivizzazione forzata delle campagne. Per sfamare milioni di operai delle città industriali, lo Stato deve gestire direttamente lo sfruttamento delle terre. I contadini non possono più né consumare né vendere direttamente i prodotti che coltivano. La Russia all'inizio degli anni 30. Un paese agricolo arretrato, con la maggior parte della popolazione composta da contadini. È soprattutto nelle campagne che sopravvivono le forme di vita pre-rivoluzionarie. La sussistenza viene garantita dai prodotti che vengono da piccole fattorie o da botteghe artigiane, poi venduti o scambiati nei mercati locali. Nel 1930 tutto questo finisce. Il dittatore ordina la statalizzazione dell'agricoltura. Un atto di violenza, il primo dei tanti che Stalin commetterà contro il suo stesso popolo. Un solo tratto di penna sconvolge l'esistenza di 4/5 della popolazione. Il processo di collettivizzazione stalinista segue una logica cinica ed inesorabile. L'industrializzazione del paese assorbe enormi risorse economiche che devono essere prodotte da cooperative di dimensioni mai viste. Sostiene Stalin: le fattorie sono talmente microscopiche che non riescono a produrre nemmeno una gallina. Ma i contadini si oppongono, i raccolti non vengono più consegnati. Stalin non esita a intervenire, dal Cremlino ordina un attacco frontale contro la popolazione rurale. Le campagne diventano teatro di un'ondata di brutali requisizioni. La polizia segreta deve scovare e confiscare tutte le scorte alimentari. A questo scopo Stalin ha bisogno di funzionari specializzati. Il racconto di quei momenti nel ricordo di alcune contadine. I funzionari della commissione confische arrivarono e si portarono via tutto. La mamma li implorava in ginocchio, piangeva, diceva che i bambini dovevano pur mangiare qualcosa, ma a loro non importava. Noi bambini cominciamo a conoscere la morte strisciante. I contadini vengono privati di tutti i loro diritti, ma Stalin non è ancora soddisfatto. Fu diramato un nuovo editto. Il progetto di collettivizzazione richiede l'annientamento della classe sociale dei kulaki. Stalin fa deportare centinaia di migliaia di kulaki in Siberia. Mentre mio padre mi raccontava la favola della buonanotte, quelli misero la casa sottosopra. E poi arrestarono mio padre. Prima che lo portassero via, feci in tempo a dirmi: tornerò, non ho fatto niente, te la finisco dopo la favola. Ma la fine di quella storia non me l'ha più raccontata. Un giorno videro che mia madre dava a noi figli che stavamo bene un pezzetto di barbabietola, mentre a mio fratello malato non dava niente. Lui, poverino, si allontanò faticosamente dalla stufa dove dormiva perché aveva fame e voleva anche lui da mangiare. I vicini dissero a mia madre: su, da qualcosa anche a lui. E mia madre: no, devo cercare di salvare almeno quelli che stanno bene. E il mio fratellino cominciò a piangere e se ne tornò vicino alla stufa. Poco dopo morì. Quando il becchino arrivò, prese mio fratello e lo posò sul carretto. Poi afferrò anche mia madre e la mise insieme al piccolo. Sebbene fosse ancora viva, io cominciai a piangere. Il becchino mi disse: piantala, non vedi che quasi non respira più? Non mi va di tornare anche domani. Una delle pagine più buie nella storia di Stalin del popolo russo, definita da alcuni una vera catastrofe etnica, è quella contro i kulaki. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Normalizzate a modo suo le campagne e i contadini, Stalin apre un'altra sanguinosa guerra interna. È il tempo delle cosiddette purghe ai danni dei dissidenti, quelli che Stalin condanna come nemici del popolo e ai quali dà la caccia all'interno del Partito Comunista Sovietico. Sono gli anni del terrore seminato tra la popolazione dallo strapotere della polizia politica di Stalin. Sono gli anni dei processi farsa e degli omicidi politici. Tutto inizia con l'assassinio di Sergei Kirov, il carismatico capo del Partito Comunista di Leningrado, il dirigente al quale si guarda con la speranza di una industrializzazione dal volto umano. È il primo dicembre del 34. Il funerale di Kirov è una solenne cerimonia di Stato. Il suo attentato segna l'inizio di un'epoca di terrore incontrollato. L'assassinio diventa un legittimo strumento della politica del regime. Ascoltiamo Alexander Jakovlev della commissione d'inchiesta su Kirov. Fu Stalin a far uccidere Kirov. Dopo il 17° congresso, Stalin vedeva in lui il suo maggiore rivale. E poiché per Stalin il potere era tutto, e non conosceva altro al di là del potere, egli aveva deciso che tutti i suoi avversari andassero eliminati. Per mascherare il tutto, viene allestita una messa in scena che diverrà tristemente famosa. Il processo farsa. Lo Stato, e quindi Stalin, è rappresentato da Andrei Vyshinsky, spietato pubblico ministero al servizio del suo padrone. Il paese reclama a gran voce una cosa soltanto: che i traditori e le spie che hanno venduto la patria siano ammazzati come cani rognosi. Fosse comuni. Testimonianze mute del terrore consumato. Tra il 37 e il 39 in tutta l'URSS viene eliminato più di 1,5 milioni di persone. Ma il dittatore ha ancora un conto aperto da regolare, Lev Trotsky. La longa manus di Stalin arriva fino in Messico, dove Trotsky vive in esilio. Un attentato che prepara da tempo, secondo il piano del capo dell'NKVD Ježov, Ramon Mercader. Nel 1937 veste i panni di un romantico Romeo allo scopo di conquistare Silvia Agelov, sorella della segretaria di Trotsky. Nel 1939 la coppia va a vivere vicino alla villa di Trotsky. Mercader diventa ospite gradito nella dimora dell'esule sovietico fino al 20 agosto del 1940. Il tragico ricordo del nipote di Trotsky, Esteban Volkov. Mercader arrivò con la scusa di far vedere un articolo a Trotsky. Entrò nel suo studio, si tolse il cappotto e il cappello e si avvicinò a Trotsky per farglielo leggere. Trotsky si sedette, ma non aveva nemmeno cominciato a leggere che Mercader tirò fuori da sotto il cappotto una picozza con la quale lo colpì alla testa con furia incredibile. Trotsky si alzò dalla sedia e cominciò a lottare con Mercader, lanciando un urlo straziante che risuonò in tutta la casa. Corremmo tutti a vedere. Quando entrai in biblioteca, vidi mio nonno a terra, in un lago di sangue. Trotsky muore il giorno seguente. Kirov, Bukharin, Trotsky, Zinoviev, Kamenev sono i nomi più noti della dirigenza bolscevica e rivoluzionari della prima ora, usciti brutalmente di scena per volontà di Stalin. Ma tra le vittime del terrore staliniano ci sono anche 30.000 ufficiali sovietici. Un errore che l'Unione Sovietica pagherà a caro prezzo. L'Armata Rossa in questo modo viene praticamente decapitata proprio nel momento in cui cresce la potenza militare tedesca e la Seconda Guerra Mondiale alle porte. Stalin sa che ora le forze armate sono indebolite. Ci vorranno anni prima che si riprendano dagli effetti dell'epurazione. Ma il pericolo maggiore si chiama Adolf Hitler. Al Führer per ora basta l'arma del ricatto per conquistare un territorio dopo l'altro. Dopo l'annessione dell'Austria e dei Sudeti, ora tocca al cosiddetto resto della Cechia. È il marzo 1939. Dunque Hitler si è già appropriato dell'Austria e di parte della Cecoslovacchia. Nel 1938 la Germania sigla con la Francia e l'Inghilterra il patto di Monaco. Impotenti di fronte al fatto compiuto, Londra e Parigi possono solo sperare che questo accordo freni l'espansione del Führer. A questo punto Stalin si trova improvvisamente spiazzato di fronte a un'Europa che ha cambiato volto. In quel fatale 39 il fascista Franco conquista il potere in Spagna, dopo una sanguinosa guerra civile. Sempre nel 39 a maggio Mussolini firma il patto d'acciaio con Hitler. Adesso Stalin non ha scelta. Deve neutralizzare la minaccia tedesca sul confine occidentale. L'abbraccio con il nemico è ora inevitabile. Nell'agosto del 39 il ministro degli esteri di Hitler, Ribbentrop, è a Mosca, ospite al Cremlino, si produce in un gesto eclatante. Davanti a Ribbentrop c'era il Politburo al gran completo. Ad un tratto lui gridò: «Hai Hitler!» Tutti trattennero il fiato. E ora che succede? Diciamo che salutare Stalin con un «Hai Hitler!» era alquanto temerario. Stalin, però, reagì in modo sorprendente. Afferrò il lembo della sua lunga giacca e si produsse in un bell'inchino. E tutti proruppero in una fragorosa risata. Hitler vuole un patto funzionale ai propri obiettivi bellici. Stalin conta di guadagnare tempo per il riarmo. Prima o poi, pensa, lo scontro con la Germania sarà inevitabile. L'Obersalzberg, la residenza di Hitler. Solo pochi giorni prima del patto con il Cremlino, il Führer proclama: «Tutto quello che faccio è diretto contro la Russia. Se l'Occidente è troppo cieco per capirlo, farò un'intesa con i russi. Sconfiggerò l'Occidente e poi attaccherò con tutte le mie forze l'Unione Sovietica». La prima vittoria però è la Polonia. Il primo settembre 1939 la Wehrmacht sferra l'attacco. È la prima vittoria lampo di Hitler. Come stabilito nel protocollo segreto del patto tedesco-sovietico, il bottino viene spartito. Il 17 settembre Stalin ordina all'Armata Rossa di invadere il territorio polacco. Alle spalle delle divisioni combattenti delle SS, squadre speciali di intervento massacrano gli ebrei e gli esponenti della classe dirigente polacca. L'Armata Rossa invece scrive in Polonia una delle pagine più nere. Le truppe di Stalin si riveleranno non meno spietate di quelle tedesche. Nel marzo 1940, nei lager di Ostaszkowo, Starobielsk e Katyn, muoiono 20.000 ufficiali polacchi, liquidati con un colpo alla nuca. Un crimine di guerra, firmato da Stalin. Travolta la Francia, Hitler è all'apice della sua potenza. Dopo la capitolazione della Francia, Stalin fu preso dal panico. Lui aveva sempre pensato che la Germania sarebbe rimasta sul fronte occidentale. In quel momento iniziò a pensare di essersi sbagliato. Tutto inizia il 22 giugno del 1941. Hitler attacca l'Unione Sovietica. 3 milioni di soldati tedeschi e delle nazioni alleate marciano verso est. L'Armata Rossa si fa cogliere completamente impreparata. Sentiamo Alexander Yakovlev, ex dirigente del Partito Comunista Sovietico. Stalin avrebbe dovuto saperlo. Avrebbe dovuto sapere che quel giorno sarebbe scoppiata la guerra. Le informazioni che arrivavano dalla Germania, dal Giappone e da altri paesi erano chiare. Ma il capo del Cremlino non vuole ammetterlo. Stalin si fida del patto di non aggressione che ha firmato con Hitler e, contro il parere dei suoi generali, decide di non dare l'allarme, nemmeno la sera prima dell'invasione. Stalin la considerava una provocazione contro, parole sue, l'amico Hitler. Proprio così. Lui diceva, il mio amico Hitler. In pochi giorni la Wehrmacht avanza di oltre 100 chilometri, senza che il signore della guerra sovietico abbia nulla da contrapporle. Centinaia di migliaia di soldati sovietici vengono fatti prigionieri. Nelle prime settimane l'Armata Rossa sembra priva di una guida, una disfatta totale. Il tiranno del Cremlino paga il prezzo degli anni del terrore. Nei primi mesi della campagna di Russia, la Wehrmacht travolge intere armate sovietiche. Oggi sappiamo che Stalin non solo trascurò in modo imperdonabile la difesa del paese, ma condusse anche in modo dilettantesco la strategia di difesa. Così Stepan Mikoyan, figlio di Anastas Mikoyan. Stalin era completamente digiuno di tecnica militare. Il generale Zhukov lo aveva messo in guardia. Concentriamo le nostre forze qui e manteniamo la posizione sugli altri fronti. Ma Stalin non gli dette ascolto. 3 luglio 1941. Il dittatore si rivolge al suo popolo. Incita alla guerra patriottica. Per la prima volta parla di fratelli e sorelle. Stalin riesce a raggiungere il cuore della gente. Si appella al patriottismo, rievoca la grande vittoria contro Napoleone. La gente andava in trincea gridando per la patria, per Stalin. Io però non la vivevo a quel modo. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. È il 1941, sul fronte orientale, Germania e Russia si scontrano con un enorme dispiegamento di forze e di uomini. Per Stalin le persone non contano. Il suo ordine è categorico: non arretrare nemmeno di un passo. Il risultato di queste scelte sono disastrose battaglie di accerchiamento con centinaia di migliaia tra morti e prigionieri. Il gruppo dell'armata centrale di Hitler punta verso Mosca. Bisogna colpire al cuore il potere sovietico. A novembre le truppe tedesche sono alle porte di Mosca, ad appena 30 chilometri dal centro della città. Il Führer vuole conquistare la città con un colpo di mano. Ma il fronte si è allungato, mancano approvvigionamenti ed equipaggiamento invernale. Ora è Hitler a dire ai suoi generali: non arretrate nemmeno di un passo. Esattamente lo stesso errore che aveva fatto Stalin. Il signore del Cremlino ne approfitta. Lui la lezione l'ha imparata. Ora le decisioni le prende insieme ad altri, primo fra tutti Georgi Zhukov. E Zhukov preme affinché Stalin richiami i contingenti dall'estremo oriente. Sono le forze fresche giunte dalla Siberia a segnare la svolta nella battaglia di Mosca. È la prima vittoria di Stalin. I tedeschi non sono più invincibili. Dicembre del 41. Fallito l'obiettivo Mosca, le armate naziste puntano verso sud. Ora l'obiettivo è il Caucaso e soprattutto i pozzi petroliferi di Baku sul Mar Caspio. Per lo scontro finale, la battaglia di Stalingrado ci vorrà ancora un anno. La fine della guerra, insomma, è ancora molto lontana. Dall'8 settembre del 41 la città di Leningrado a nord è sotto assedio. È un assedio che durerà 900 giorni, fino al 27 gennaio del 44, una difesa strenua, eroica, con un enorme prezzo pagato in vite umane. Yalta in Crimea, Palazzo Livadia, residenza degli zar. È qui che si svolge a febbraio del 45 una conferenza tra i futuri vincitori. Stalin è il padrone di casa e apre l'incontro con un obiettivo preciso: spuntarla su Churchill e far valere le sue rivendicazioni. La posta in gioco, l'assetto della Germania e dell'Europa dopo la guerra. Stalin vuole che il territorio tedesco sia utilizzato per spostare ad ovest la Polonia. Il dittatore mira a conservare il bottino procuratogli dal patto con Hitler. Aprile 1945, la marcia su Berlino. Stalin vuole arrivare nella capitale del Reich prima degli occidentali e passare alla storia come colui che ha annientato Hitler. Stalin ha raggiunto la sua meta. Berlino, maggio 1945. I notabili sovietici visitano la città distrutta, città che Stalin deve già dividere con gli altri vincitori. La cancelleria devastata. Visita nel bunker di Hitler. Il suo cadavere è stato trovato, ma nessuno deve saperlo. La morte di Hitler non doveva assolutamente essere resa pubblica. Fu un esplicito ordine di Stalin. Perciò, quando il cadavere fu trovato, non vennero ammessi fotografi, giornalisti, cineoperatori, nessuno. Doveva restare un segreto. Onorevole Achille Occhetto, oggi, pensandoci, chi è stato per lei Joseph Stalin? Ma io voglio premettere innanzitutto che io non mi sono formato sui libri di Stalin, ma per fortuna su quelli di Antonio Gramsci. Tuttavia devo ammettere che nei primi anni della mia militanza, ma parlo di quando avevo 17 anni, consideravo Stalin, d'altro canto come Churchill e Roosevelt, un campione della lotta dell'antifascismo, e quindi partecipavo di quel mito che, diciamo, colse anche gran parte del mondo democratico occidentale, degli intellettuali. Pensiamo a un uomo come Sartre, che poi successivamente fu uno dei più feroci critici dello stalinismo. Ma devo dire che abbastanza presto la mia posizione fu fortemente critica. Ecco, quando è iniziata l'autocritica da parte sua? Ma la parola autocritica, per ciò che mi riguarda, non perché non voglio fare autocritiche, era un po' assurda, perché ero un ragazzo, quindi quando ho incominciato a pensare, si può dire, quando ho preso in mano nei primi scritti critici sulla rivoluzione d'ottobre, importante fu un libro bellissimo, quello del Carr, e soprattutto il contatto con il pensiero critico da un lato della Luxemburg e dall'altro di Trotsky. Naturalmente poi il 20° congresso diede il colpo di grazia e incominciai a capire che Stalin è stato in realtà l'uomo che più di ogni altro ha fatto fuori, ha distrutto, ha ammazzato, ha confinato i comunisti, più di quanto abbiano fatto tutti gli altri regimi. Pensiamo che il regime di Stalin ha fatto fuori non solo qualche dissidente, ma tutto lo Stato Maggiore, il gruppo dirigente che aveva fatto la rivoluzione d'ottobre. È una cosa incredibile. Sì, lo abbiamo raccontato, ma è stato secondo lei solo questo? Questo intanto non mi sembra piccola cosa. In questa repressione c'è stata una sorta di restaurazione, una sorta di costruzione di qualche cosa che niente aveva a che vedere con il progetto di una sinistra democratica. Stalin ha impiantato un capitalismo di Stato, in sostanza, un collettivismo autocratico che ha bagnato le ali e ha colpito moralmente per dei decenni la storia della sinistra mondiale. Ecco, ma perché PC, PDS, poi PD non è riuscito a diventare come partito un partito riformista italiano? C'era un'eredità stalinista che non è mai stata veramente superata? Ma questo non è il problema. Io credo che in Italia non si è fatto un partito socialista unitario nel 1956, io ero contro l'intervento sovietico Invece purtroppo allora il gruppo dirigente, compresi i cosiddetti riformisti e miglioristi, furono dall'altra parte della barricata con i carri armati sovietici, e lì si ruppe con Nenni, che era un uomo autenticamente di sinistra. Poi con la svolta noi siamo entrati nel socialismo europeo, abbiamo abbracciato tutte le idee fondamentali del socialismo democratico, quindi... L'eredità di Stalin non c'entrava, dice lei? Ma direi proprio di no, questa l'avevamo già superata anche con Berlinguer. Il problema è che bisognava muoversi ormai dentro un orizzonte ideale politico è diverso, tant'è vero che noi siamo passati dall'area del comunismo internazionale a quello della socialdemocrazia. Onorevole Occhetto, ma oggi, con le dovute differenze, si può trovare qualche analogia tra Putin e Stalin? Uno degli aspetti fondamentali dello stalinismo e del regime sovietico è quello che prima ho definito e che pochi definiscono capitalismo di Stato, perché tutti preferiscono considerarlo, malgrado tutto, un'esperienza di sinistra. Che io abbia ragione è dimostrato dal fatto che con la rottura dell'Unione Sovietica i capitalisti di Stato diventano i capitalisti della nuova Russia, i nuovi RAS della Russia. E non a caso un uomo in vista del KGB, come Putin, è presidente della Russia oggi. Quindi l'analogia è questo controllo dell'economia? È un controllo dell'economia nelle mani di pochi. Che sia il partito o qualche monopolista non cambia molto. Cioè, se uno dicesse che Putin è neostalinista, si può dire? Ma a me non piacciono queste definizioni di tipo giornalistico. Ritengo che sia importante fare delle analisi storiche approfondite. Ogni esperienza storica ha una sua originalità. Ma onorevole Occhetto, se oggi qualcuno la incontra e le dice che lei è un comunista, lei cosa risponde? Io rispondo che sono colui che ha fatto la svolta e ha cambiato il Partito Comunista. Se per comunismo si intende, come molti italiani hanno inteso nella loro storia, un ideale di emancipazione sociale e politica, io sono stato e sono comunista, non lo considero un insulto. Se mi si chiede se sono d'accordo con quel tipo di costruzione statuale e politica che è stato il socialismo reale, dico mi sento lontano anni luce da quel tipo di società e di visione culturale. Mix 24.